Giovanni e Nicola, per festeggiare il loro ritorno da Ibiza, dove come al solito hanno preso un sacco di botte, vanno in uno dei migliori bar di Cosenza e provincia. Giovanni, dimmi una cosa, sì, cademe pure. Oh, Nico, ti porto in un bar da mille una notte, ma a proposito, com'è finito con Maria Assunta? La sta sentendo? Sta toccato un tasto proprio. Ma ha detto di sparare proprio, voglio bere per dimandare caro. E allora vieni con me, ya. Yeah. Giovanni e Nicola arrivano al bar e Nicola, con fare molto signorile, si dice molto colpito dallo sfarzo del locale. Giova, è una mesa dove mi ha portato, dai principe, ma ora come mi ha portato? E che ti pensi, casi non qua ancora qua? Che ti pigli? È un aperitivo, giusto per me sgoleana po'. E lei, signore? No, io piglio una cosa diversa, no martini. Signori, ecco gli stuzzichini. No, comba, ma se Pizzetti l'ha passato in della morbidente, che l'ha lasciata? Ecco il conto, signori. 15 euro. E chi supplacate d'oro, sapere teve? E che mo' che... Signore, per qualsiasi pretesta, chiamo il proprietario. E chiamo? Che cazzo credete che è? Sta pazzito in Spagna, un guacchi è morto. Nico, guarda chi è un proprietario. E Maruzzo al cover. Fuori. Che volete, se vuoi essere... La Torrione di Petrini Production ha presentato Le avventure di Giovanni e Nicola. Ricordiamo che i DVD di Giovanni e Nicola saranno disponibili presso le migliori edicole di sotto carceri, oppure nel dintorni dell'università, specie verso le casine di Zio Rocco. Nel ricordarvi che Giovanni e Nicola torneranno, se riescono a sopravvivere alle mazzate di Maruzzo Hulk Hogan, nella prossima puntata. Grazie per aver seguito il programma.